Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Otto e 58 minuti di questa nostra giornata di mercoledì 11 dicembre, che naturalmente prenderà in esame le piazze italiane d'estere, ma noi subito cominciamo come sempre con Radio Bullet. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Cile, scompare aereo militare con 38 persone a bordo. Messico, arrestato ex capo della pubblica sicurezza per traffico di droga. Afghanistan Papers, 18 anni di menzogne per 3 amministrazioni americane che non hanno voluto dire quanto andasse male la guerra. Mele, birre e pigiami, beni turchi boicottati nel nord della Siria. E la Turchia si dice pronta a mandare soldati per aiutare il governo libico. Negata l'entrata negli Stati Uniti dell'ex console generale saudita in Turchia per il caso Khashoggi. Algeria, domani si vota per il presidente nonostante le manifestazioni. L'arcipelago di Bougainville ha votato oggi per diventare lo stato più giovane al mondo. E infine Nuova Zelanda ha ordinato 1,2 milioni di centimetri quadrati di pelle dagli Stati Uniti per curare gli ustionati del vulcano. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dal Cile. Un C-130, un aereo militare dell'aeronautica cilena con 38 persone a bordo che sorvolava l'Antartico, ha perso i contatti radio. Argentina, Alberto Fernandez ha giurato a Buenos Aires al Parlamento, diventando il 7° presidente eletto democraticamente dalla fine della dittatura nel 1983, sostituendo così il suo predecessore Mauricio Macri. Messico, l'ex capo della pubblica sicurezza è stato arrestato in Texas con l'accusa di aver ricevuto milioni di dollari in tangenti per aiutare il noto boss El Chapo a spedire tonnellate di droga negli Stati Uniti. Gennaro García Luna, che è stato segretario della pubblica sicurezza del Messico dal 2006 al 2012, è stato preso in custodia lunedì a Dallas. Un ex membro del cartello di Sinaloa, che ha testimoniato nel processo a New York contro il capo El Chapo Guzman, ha detto di aver consegnato personalmente 2 valigie da 6 e 8 milioni di dollari in tangenti a García Luna in un ristorante. A quel tempo García Luna aveva negato le accuse di Jesús Rey Zambada, definendole bugie, diffamazioni e falsa testimonianza. Ora è accusato di aver protetto le operazioni di traffico di cocaina del cartello di Sinaloa dal 2001 al 2012, usando la sua posizione nelle forze dell'ordine per consentire di operare impunemente in Messico. Ha diretto l'agenzia investigativa federale incaricata di combattere il traffico di droga e la corruzione dal 2001 al 2005, successivamente passato alla carica di segretario della pubblica sicurezza che controlla la polizia federale fino al 2012. Se dichiarato colpevole da una giuria americana rischia da un minimo di 10 anni di carcere all'ergastolo. Guzman è stato condannato a luglio all'ergastolo dopo un processo di 3 mesi a New York. Stati Uniti, un giudice federale del Texas ha detto che l'amministrazione americana non può usare i 3,6 milioni di dollari fondi dirottati dal Pentagono per costruire il muro con il Messico. La causa era stata intentata dalla contea di El Paso e dall'associazione Border Network for Human Rights. Per loro il presidente Trump ha abusato della sua autorità quando ha dichiarato l'emergenza nazionale in modo da ottenere i fondi. Sparatoria a Jersey City, tra le 6 vittime un poliziotto e 2 aggressori, un uomo e una donna che hanno sparato durante un'operazione di polizia. E ancora Stati Uniti hanno impedito l'entrata nel paese a Muhammad al-Otaibi, che era console generale saudita al consolato di Istanbul quando il giornalista Jamal Khashoggi nel 2018 venne ucciso proprio in quel consolato. Stai ascoltando Radio Bullets. Yemen, l'amministrazione Trump ha annunciato un cambiamento che potrebbe rappresentare un importante punto di svolta nella politica degli Stati Uniti nei confronti dello Yemen, annunciando che non considerano più il movimento ribelle sciita degli Houthi nello Yemen come una procura del governo iraniano. Questa posizione è stata inizialmente sostenuta dal governo saudita per giustificare la guerra nello Yemen con l'appoggio degli Stati Uniti, questo nonostante gli Houthi abbiano sostanziali differenze ideologiche con l'Iran, pochi contatti diretti e non siano proprio lo stesso tipo di sciiti. Gli Stati Uniti non hanno spiegato il loro cambiamento di posizione, ma potrebbe riguardare i continui colloqui di pace dell'Arabia Saudita con gli Houthi, dal momento che gli Stati Uniti non potrebbero sostenere un accordo di pace che coinvolgesse un'effettiva fazione legata all'Iran. Intanto un nuovo memo americano rivela che il Pentagono sospenderà temporaneamente l'addestramento per 5.000 soldati sauditi che si trovano negli Stati Uniti, dopo che uno di loro, Mohammed al-Shamrani, 21 anni, un tenente dell'aeronautica saudita, la scorsa settimana ha sparato all'interno di una classe uccidendo 3 marinai americani e ferendone 8 prima di essere ucciso dalla polizia a Pensacola, in Florida. L'Iran ha annunciato che le autorità americane hanno in prigione 20 iraniani il giorno dopo che Teheran ha detto di essere pronto a uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti. Uno scambio di prigionieri nel fine settimana ha visto la liberazione di uno studioso cinese americano di Princeton trattenuto in Iran per 3 anni con accuse di spionaggio ampiamente criticate. L'azione è stata vista come una rara svolta diplomatica tra Teheran e Washington dopo mesi di tensione. Iraq. Ancora decine di migliaia di persone sono scese ieri in piazza Baghdad verso Tahrir Square e sui ponti vicini. Dal 1 ottobre, quando sono scoppiate le proteste contro il governo, sono morte 450 persone nel tentativo della polizia di fermare queste proteste. Il presidente Barham Salih ha esortato i manifestanti antigovernativi e politici a lavorare insieme per nominare il nuovo primo ministro. Gli iracheni hanno bisogno di un governo in grado di garantire la soluzione dei problemi iracheni, costruire il paese e le sue istituzioni, ha detto Salih. Ieri si ricordava anche la liberazione avvenuta il 10 dicembre 2017 dall'autoproclamato Stato Islamico. Il presidente turco Erdogan ha dichiarato ieri di essere pronto a inviare truppe in Libia se richiesto dal governo riconosciuto internazionalmente a Tripoli. La Turchia ha firmato un accordo militare il mese scorso con il governo di accordo nazionale della Libia guidato dal primo ministro Sarraj. Tutto questo dopo che i media hanno riferito che la Russia aveva inviato 200 mercenari per sostenere Haftar, il rivale di Sarraj, che sta cercando di rovesciare il governo di Tripoli. La Russia ha negato le accuse, ma Erdogan ha dichiarato esiste una compagnia di sicurezza russa in Libia chiamata Wagner. Questa compagnia ha inviato lì il suo personale di sicurezza, ha detto il presidente turco. Il gruppo Wagner è una società di sicurezza privata misteriosa e si ritiene che migliaia dei suoi uomini si trovino a partecipare a conflitti stranieri dalla Siria all'Ucraina e alla Repubblica Centroafricana. Contemporaneamente all'accordo militare, la Turchia ha anche firmato un controverso accordo di giurisdizione marittima con Sarraj, dando ampi diritti alla Turchia per esplorare il petrolio nel Mediterraneo. Siria e i curdi del nord hanno deciso di boicottare alcuni beni turchi dopo l'offensiva militare nella regione, rivelando quanto comunque dipendono dal loro nemico più grande per alcune risorse come mele, la birra, i pigiami, l'olio e i pomodori. L'80% infatti delle importazioni della Siria nord-orientale provengono dalla Turchia, ha detto Salman Barudi, un alto funzionario della regione autonoma responsabile delle politiche agricole ed economiche. Algeria, nonostante le proteste che hanno fatto di tutto per cancellare le elezioni, domani si vota al presidente, mentre 2 ex primi ministri sono stati condannati ieri per corruzione. Ahmed Ouya, primo ministro 4 volte, ha ricevuto una condanna a 15 anni di carcere e Abdel Malek Selal, 2 volte premier, è stato incarcerato per 12 anni. I due uomini hanno negato tutte le accuse, tra cui l'appropriazione indebita di fondi pubblici, abuso di potere e concessione di indebiti privilegi. È stata la prima volta dall'indipendenza dell'Algeria dalla Francia nel 1962 che 2 ex premier vengono processati. Tra gli uomini d'affari incarcerati ieri c'era anche Ali Haddad, ex capo della più grande associazione imprenditoriale algerina, condannato invece a 7 anni. L'unico imputato che è stato assolto è l'ex ministro dei trasporti Abdelghani Zalane, Tornando invece alle proteste, al voto di domani, il presidente Bouteflika si era dimesso lo scorso aprile grazie alle pressioni dei manifestanti scesi in piazza a febbraio. Manifestanti che sono convinti che il voto di domani non sarà giusto, perché alcuni alleati dell'ex leader sono ancora al potere. Per l'esercito invece il voto è l'unico modo per uscire dalla crisi. Stai ascoltando Radio Bullets. Olanda, si è aperta l'udienza alla Corte Penale Internazionale per discutere le accuse di genocidio lanciate contro il Myanmar nei confronti della minoranza Rohingya, a difesa del suo paese, la leader de facto Aung San Suu Kyi. Svezia, il premier etiope ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Afghanistan, una bomba di un certo rilievo esplosa vicino alla grande base di Bagram, sul luogo dove si stava costruendo una clinica. Al momento della redazione del notiziario non risultano vittime tra i soldati americani, ma ci sono almeno 30 feriti afghani e alcuni edifici sono stati molto danneggiati. Intanto più sud, a Kabul, i talebani hanno rapito 45 membri anziani di una famiglia di un impiegato del governo morto. Tutti stavano partecipando al suo funerale. Non sono stati presi. I talebani spesso mettono in guardia dal partecipare ai funerali di chiunque lavori per il governo da loro non riconosciuto. E restiamo in zona, perché ha suscitato shock e rassegnazione la pubblicazione sul Washington Post degli Afghanistan Papers tra parlamentari, veterani, esperti, dove sono stati rivelati 18 anni di bugie e distorsioni da parte dei funzionari americani per quanto riguarda la guerra in Afghanistan. Sul nostro sito troverete il link ai documenti, 2000 pagine di note confidenziali e interviste a più di 400 persone, tra cui ambasciatori e militari sul campo, dove si parla della costante parata di fallimenti, mentre tre amministrazioni diverse hanno sempre parlato del muoversi nella giusta direzione. Il candidato democratico Tulsi Gabbard alle presidenziali, veterano, ha chiesto un'indagine su questo rapporto. Le Filippine aboliranno la legge marziale sulla regione meridionale del Mindanao alla fine di questo mese, citando un clima di sicurezza in miglioramento e una riduzione della minaccia di estremismo, 2 anni dopo uno dei più grandi attacchi ispirati dallo Stato Islamico in Asia. La legge marziale è stata imposta nel maggio 2017 in risposta a un attacco a sorpresa nella città di Marawi da parte di combattenti locali e stranieri fedeli al sedicente Stato Islamico. I ribelli hanno tenuto la città per 5 mesi respingendo attacchi aerei giornalieri e attacchi a terra prima che i loro capi fossero uccisi. Un ex ministro della difesa giapponese è stato ferito una gamba vicino a casa sua nel nord del Giappone, secondo quanto riportato dal quotidiano Sankei, citando fonti della polizia. Tamazawa Tontanani è stato ministro della difesa nel governo del primo ministro Tomichi Murayama. Un 80enne è stato arrestato. L'arcipelago di Bougainville nel Pacifico meridionale oggi ha votato in modo schiacciante per diventare indipendente dalla nuova Papua Guinea, diventando così l'ultimo territorio al mondo a cercare la secessione. Più di 200.000 elettori sono stati registrati per votare in questo referendum. I Bougainville sono per lo più malesiani e la lingua locale è il Tok Pisin, un inglese pidgin della Papua Nuova Guinea, sebbene vi siano almeno 19 lingue indigene distinte. L'isola di Bougainville prende il nome dal navigatore francese Louis Antoine de Bougainville, che navigò lungo la costa orientale nel 1768. E concludiamo con la Nuova Zelanda: ha aperto un'inchiesta sulla morte di 5 turisti durante l'eruzione di un vulcano, un'altra è morta poco dopo per le ustioni in ospedali, 8 persone risultano disperse, le condizioni meteo ostacolano le ricerche. Molti hanno chiesto perché i turisti erano stati autorizzati a sbarcare sull'isola di Wight dopo che gli esperti fin dal mese scorso avevano alzato il livello di allarme del vulcano. La ministra Jacinda Ardern chiede risposte. Al momento dell'esplosione sull'isola lunedì c'erano 47 persone che sono state evacuate, tutte ferite, alcune con gravissime ustioni. A questo proposito il governo ha ordinato 1,2 milioni di centimetri quadrati di pelle dagli Stati Uniti per trattare i pazienti ustionati con innesti. I chirurghi lavoreranno 24 ore al giorno per i riparare i danni al 95% del corpo di alcuni di loro e devono essere veloci, più del solito, perché le ustioni provocate dal gas tossico del vulcano sono molto pericolose. La media degli altri invece di ustioni tra il 40 e il 50% del corpo, 22 persone restano attaccate al respiratore perché le ustioni hanno colpito anche i polmoni. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi. Buon proseguimento di ascolto e di giornata, appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau time. Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti al Pinsimonio radiofonico. Oggi abbiamo un pinsimonio sentimentale, diciamo, in cui andiamo a cercare di capire la differenza che c'è tra impulso, emozione e sentimento. Lo spunto per questa puntata mi è venuto guardando un video del filosofo Gallimberti, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia, riguardo appunto le differenze tra impulso, emozione e sentimento. L'impulso, dice Gallimberti, conosce il gesto, l'emozione conosce la risonanza emotiva di quello che si compie e di quello che si vede, degli eventi. Poi si arriva al sentimento, che è una forma evoluta, perché non è solo una faccenda emotiva, ma anche cognitiva. Il sentimento si apprende. I greci lo apprendevano attraverso i miti, noi attraverso la letteratura. La mancanza di ciò causa l'analfabetismo emotivo, cioè l'assenza di mappe emotive che guidano la nostra modalità di sentire, non di capire, ma di sentire il mondo e di reagire agli eventi in modo proporzionato. Queste sono le mappe che formano la dimensione emotivo-sentimentale. Andiamo quindi a vedere cosa dice il Treccani di impulso. Innanzitutto la parola impulso è il participio passato del verbo impellere, che significa spingere innanzi o sospingere con forza. È un latinismo raro che si trova usato ormai solo nel passato remoto impulsi, nel participio passato impulso e nel participio presente impellente. In questo senso, impulso è una forte spinta comunicata a un corpo, uno stimolo, un incitamento, irriflessivo e istintuale a compiere un atto. Sentì l'impulso di abbracciarlo o agire d'impulso. In psicanalisi, l'impulso è un desiderio, un istinto, intesi come mobilitazione di energia psichica. Più genericamente, è una tendenza istintiva, un'inclinazione spirituale, a secondare i propri impulsi. Poi invece andiamo a vedere cosa dice il Treccani di emozione. Emozione deriva dal francese émotion, derivato di émouvoir, che significa mettere in movimento. Quindi è qualcosa che è messo in movimento da un impulso, che significa appunto smuovere, dare una spinta. L'emozione è un'impressione viva, un turbamento, un'eccitazione. In psicologia il termine indica genericamente una reazione complessa di cui entrano a far parte variazioni fisiologiche a partire da uno stato di base ed esperienze soggettive variamente definibili ed è solitamente accompagnata da comportamenti mimici. Quindi, come detto prima, l'impulso conosce il gesto, mentre l'emozione conosce la risonanza emotiva di questo gesto, che è accompagnata da uno stato fisiologico e da un'espressività fisica, mimica, facciale. Infine, il vocabolario dice di sentimento, che è la facoltà, l'atto e anche il modo del sentire, di avvertire impressioni esterne o interne. È affine quindi a senso nel suo significato più generale. Sentimento inteso sempre come coscienza, controllo, dominio di sé. Il sentimento esprime piena consapevolezza dei propri atti, in quanto presuppone una valutazione, un discernimento. Sentimento è anche ogni forma di affetto, di impulso dell'animo, di movimento psichico, sia che rimanga chiuso entro l'animo della persona stessa, sia che si rivolga e proietti verso gli altri, verso il mondo esterno. Concludendo quindi questa disserzione, possiamo dire che gli impulsi sono fisiologici, biologici, naturali e sospingono l'emozione, che sempre illogica, fisiologica ed espressiva, resta di breve durata. L'emozione è una risposta a uno stimolo ed è legata agli eventi. Sono emozioni la gioia, la paura o il desiderio. Il sentimento passa invece dal livello fisiologico a quello cognitivo, che può essere a lungo termine ed è un comportamento che si apprende. Sono sentimenti il dolore, la noia o l'entusiasmo. Un'emozione di gioia può diventare un sentimento di felicità, l'emozione della paura diventerà un sentimento di ansia e così emozioni come l'euforia, il desiderio o anche la tranquillità potranno sfociare ed evolversi in un sentimento di amore. Quindi l'invito è di fare una riflessione sulle proprie emozioni, su come le trasformiamo e le elaboriamo in sentimenti e sui comportamenti a cui poi questi sentimenti ci portano. Così si conclude il Pinsimonio di oggi. Io vi auguro una buona giornata sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio. 5 parole per condire il tuo linguaggio. Story I've never been told. So

la rotta dell'informazione. 9:30 minuti all'ora di questo 11 dicembre, mercoledì. Siamo entrati appunto nello spazio dedicato alla rassegna stampa che apre dall'internazionale, anzi dal mondo intero, perché torniamo a Madrid dove c'è questo incontro sul clima ampiamente snobbato dai giornali, quando dovrebbe essere evidentemente centrale visto che riguarda tutti nord, sud, est, ovest, ma in realtà appunto quando le cose sono troppo grandi per entrare nelle pagine dei giornali o le si estromettono oppure si va con armi di distrazione di massa. Ma vediamo appunto cosa si cita nei pochi giornali che abbiamo su questo argomento, per esempio dal Corriere della Sera, pagina 20. Le terre dove viviamo affondano. Il grido d'aiuto dalle isole del Pacifico è una cosa abnorme, colossale, ma evidentemente è troppo grande appunto per entrare in una prima pagina. Madrid, i governanti, gli effetti del cambiamento climatico. È come una Venezia su larga scala. E le isole del Marshall sono state le prime nazioni al mondo a tagliare le emissioni di CO2, eppure continuano ad andare sott'acqua, anche perché noi sappiamo che i paesi che meno hanno responsabilità nell'inquinamento sono quelli che più pagano dazi, un po' la lotta di classe dell'ecologia, chi è più debole gli piovono addosso tutte le pietre, eppure appunto continuano ad andare sott'acqua queste isole Marshall. Due settimane prima dell'apertura della COP25, maree con onde alte fino a 5 metri hanno colpito il capitale Majuro, centinaia di persone vengono evacuate, una lotta contro la morte, ha esclamato la presidente Hilda Heine. Ricordiamo che ieri, prima di questi governanti delle piccole isole che vanno sott'acqua, c'erano i rappresentanti dei piccoli popoli indigeni del Sud America che vengono massacrati dalla deforestazione. Ma andiamo avanti. Lotta, sopravvivenza, resilienza, sabbia sono le parole più usate dai delegati delle isole del Pacifico e dei Caraibi a tutti i vertici sul clima, sempre in prima linea. Non è un caso che gli 11 capi di Stato e di Governo presenti alla COP25, i primi a parlare ieri, sono loro. Sono loro i capi di Stato, gli altri invece sono impegnati in altre faccendati. E allora il Corriere, che dà mezza pagina a questa notizia, ne dà un'intera a un'altra. È un'intervista di Sara Gandolfi al ministro Costa dell'ambiente italiano, e dice: in ottobre a Milano la prima COP dei giovani. E quella notizia, Greta ci sarà, perché questa naturalmente Greta è assolutamente incolpevole, anzi lo dico, Greta ha una resistenza alle fascinazioni e alle cooptazioni degli ambienti doc che è invidiabile, ma l'utilizzo appunto è che se Greta non ci fosse cosa cambia? Comunque, Costa, ministro dell'ambiente, figli e dicono i genitori, gran belle parole. La plastic tax non ha molto senso colpire ciò che è comprensibile, degradabile e riciclabile. Infatti alla prima prova minimamente ecologista del governo c'è stato il rinvio. Comunque, visto il protagonismo dei giovani, COP Youth diventerà un evento chiave. Ne ho parlato con il sindaco di Milano e col presidente della regione Lombardia. Sono entrambi entusiasti, anche Fontana, no? Della Lega, entusiasti di questa cosa. Allora questo è il tema. Quindi Greta è invitata, ma certamente allora a questo punto i giornali cominceranno a chiedersi: come andrà Greta se ci va a Milano? Ci andrà in monopattino? Ci andrà in bicicletta? Ci andrà in mongolfiera? Questo è l'elemento che riguarda, non le isole Marshall, le isole Granada, le isole vanno sott'acqua, quello no invece. Questo è il tema di apertura. Non so se tu hai delle altre materie sul clima, mi fai senso di sì, allora parlo a Willy. Certo, di nuovo buongiorno, grazie Alfredo, siamo a pagina 14 di Repubblica, si parla di clima, è ora di agire, sfila l'altra America di Bloomberg e Gore, la conferenza COP25 a Madrid, un presidente mancato, un presidente cinematografico e un aspirante presidente. Al Gore, Harrison Ford e Michael Bloomberg, in assenza del vero inquilino, guarda un po', della Casa Bianca, Donald Trump. Gli Stati Uniti hanno monopolizzato la giornata di ieri dalla conferenza sul clima di Madrid con tre protagonisti che lo studio Vale lo conoscono bene e intendono conquistarlo. Bloomberg, che ha annunciato di volersi candidare nel Partito Democratico per affrontare le primarie, quindi è un altro industriale, in caso di vittoria sfidare Trump alle presidenziali. Perché sono qui? Perché non c'è nessuno della Casa Bianca, ha spiegato. Gli Stati Uniti hanno bisogno di essere rappresentati in un vertice sul clima come quello di Madrid. I grandi che si confrontano e si affrontano sul clima, e poi ritroviamo sempre le briciole poi in conclusione a quello che è uno svolgimento finale, una montagna che partorisce sempre, se va bene, un topolino. Gli Stati Uniti hanno bisogno di essere rappresentati in un vertice sul clima, e visto che Donald Trump ritiene che il riscaldamento globale sia una fake news, ci pensa l'ex sindaco di New York a pronunciare parole di riscossa. Ma a proposito, no, di dove si è trovato Trump e gli impegni, abuso di potere, ostruzione ai deputati, le prove schiaccianti contro Trump. Dopo quasi tre mesi di indagini, i democratici annunciano in un giorno solenne due articoli per l'impeachment, dura replica della Casa Bianca. È una caccia alle streghe che si difende sempre in questo modo, o con menzogne o caccia alle streghe. In gennaio il giudizio del Senato ed è già la terza volta per un presidente degli Stati Uniti d'America. A te, Alfredo. Dem, due accuse per affondare Trump, e dice anche il Fatto Quotidiano, impeachment, abuso di potere e ostruzione del Congresso, il dossier alla Camera prima di Natale. Tra l'altro, qui sempre della serie Americans o Yankee, abbiamo queste notizie di che oggi rimbalzano, ovvero sì, Afghanistan ancora bugie di guerra. È un po' come il Vietnam, dicono i giornali, c'è un dossier che raccoglie tutte le fake news, o Bologna, le patacate della Casa Bianca nel corso dei vari presidenti, perché non è solo Trump, su questo, sulla guerra giusta, qui si chiamava, mi sembra, qui partecipò anche l'Italia, mi sembra di ricordare. Detto questo, si vota domani, il Regno Unito vota, e quindi un voto che sembra in qualche modo scandire il voto nel nome di Boris Johnson, quindi la destra che ha cavalcato la Brexit, ma il problema è se avrà la maggioranza assoluta oppure no. È un po' un problema all'italiana, per dirla. Brexit, nuovo referendum, tu chiamale se vuoi elezioni. Questo è il commento di Sabrina Provenzani del Fatto Quotidiano. Al voto, la frattura è iniziata nel giugno 2016 con la scelta di lasciare l'Unione Europea. Domani si sceglie a quale governo affidare il futuro del paese. Gli scenari: un esecutivo laburista potrebbe riaprire i negoziati, Johnson invece punta al no deal, ma anche al no welfare a quanto sembra, oltre che il no deal, perché leggiamo dal Corriere della Sera il bimbo malato per terra, la foto che il premier si rifiuta di guardare, la sanità nel Regno Unito sotto accusa. Una volta era famosa la sanità del Regno Unito, che era in qualche modo invidiabile, a forza di fare i tagli, la signora Thatcher in avanti, adesso invece va alla sbarra degli imputati. Danno per le immagini, quindi c'è questo bambino malato che non, per terra, che nessuno vuol curare. Per i Tories questa foto è compromettente, il distacco emotivo del loro capo è un autogol. Ma il Corriere dice: Boris in testa, un odio in guai, il Labour, un ministro ombra, con questo leader non vinceremo mai, cioè, quindi l'attacco è Jeremy Corbyn. Domani si vota Tories a caccia della maggioranza, anche perché, come racconta il giornale, abbiamo Bojo, che è Boris Johnson, e Jeremy affondati dagli ex premier rivali. Il laburista Tony Blair e il Tory Lord Major per il no alla Brexit e un secondo referendum. Ora, forse con Jeremy Corbyn non si vincerà, ma ricordiamo che il collasso del Labour l'ha portato il partito di Blair e i suoi seguaci. Jeremy Corbyn ha riportato in auge, o meno competitivo, anche se indietro, il partito laburista. E allora l'ostilità dell'Occidente verso Corbyn si spiega con questo lungo articolo che gli dedica Luigi Polito dal Corriere della Sera, quindi dal giornale della borghesia cosiddetta intelligente italiana, ovvero sia la tentazione rossa di Corbyn, quindi è un peccato originale di sinistra. Il leader laburista, se sarà premier, proverà ad abbattere il capitalismo britannico, confisca di azioni, nazionalizzazione e tasse per i ricchi. Dove osa la sinistra? Il Labour lancia le proposte più radicali mai usate da un partito della sinistra occidentale. Oddio, a volte c'era anche il Partito Comunista Italiano e la sinistra italiana che osava. Ma tutto questo che abbiamo iniziato con l'ecologia, eccetera, ci porta a un tema diverso. Saudi Aramco al debutto in borsa, quindi il petrolio dell'Arabia Saudita, quindi ecologia, politica, guerra, sta tutto lì. Ma l'80% dei titoli è in mano saudite, quindi nelle mani più fasciste, che più fasciste non si può. IPO record a 2,25-6 miliardi, ma gli investitori esteri restano per ora lontani. Riad è convinta ad arrivare a $2,000 di valore entro qualche mese. Questo è la vicenda del petrolio nel mondo. Sì, proseguo con gli esteri ricollegandomi a pagina 15 con l'argomento Brexit. Corbyn, il mio libretto rosso, unica speranza per salvare il regno, incontro con il leader laburista alla vigilia delle elezioni britanniche. Anche la Repubblica non è mai stata gentilissima con Corbyn. Piuttosto che fare analisi sulla morte delle socialdemocrazie in Europa, tra i protagonisti Renzi, Macron, Blair, e potrei andare avanti. Comunque a Carlisle, nel profondo nord dell'Inghilterra, in un pub della periferia, operaia insieme ai suoi sostenitori, almeno c'è qualcuno che ha una consistenza che parla ancora con gli operai, spero di farvi un bel regalo di Natale. Siamo a Carlisle, in Inghilterra, Mr. Corbyn, come mai, secondo tutti i sondaggi, la classe operaia ora sostiene Boris Johnson e non lei. Non è colpa nostra, risponde a Repubblica il leader laburista. La colpa è di 9 anni di austerity dei conservatori. Hanno distrutto i salari pubblici, dissanguato i fondi di amministrazioni locali, i centri giovanili, le biblioteche, i parchi giochi, o non fa una piega, ossia tutto ciò che unisce una comunità. E ora c'è chi se la prende con i nostri deputati di qui. Quando entreremo a Downing Street, lanceremo noi il vero cambiamento. Il nodo Brexit sul voto di domani, la guida all'approfondimento a pagina 15 di Repubblica. Certo, continuiamo il nostro giro intorno al mondo, dove diverse realtà sono protagoniste. Ad esempio la Francia, per restare in Europa, il fantasma della riforma delle pensioni agita la Francia, continuano le proteste, è il secondo giovedì di sciopero, ma la partecipazione è in calo. Siamo a pagina 8 del Manifesto. Macron è contestato, oggi il primo ministro illustra la bozza, sistema unico e punti, modello svedese. Intanto in Repubblica Ceca, sparatorie nell'ospedale di Ostrava, sono 6 morti, una tragedia che si è consumata in poche decine di secondi, passate appena le 7 di mattina di ieri. Il 42enne Citrad è entrato nel polo ambulatorio dell'ospedale universitario di Ostrava, uno dei più grandi della terza città della Repubblica Ceca, con l'intenzione di fare una strage. Dalla Repubblica Ceca a Budapest, manifestazioni contro la proposta di legge, controllo dei teatri, dei valori nazionali. Questo è Orbán, le mani di Viktor Orbán sulla cultura. Quindi siamo passati al sovranismo più becero, mascherato appunto da una vicinanza con l'Europa. Ma lasciamo anche l'Europa per vedere quello che c'è nel continente sudamericano. L'Argentina che festeggia Fernandez, presidente, riparte dagli ultimi. Cerimonia di insediamento alla sede, alla Casa Rosada, con Cristina Kirchner, vice. Etiche delle priorità di fronte al disastro economico del paese. La promessa di una crescita sociale, con giustizia sociale, donne e ambiente nelle prime parole. Quindi un peronismo, se vogliamo, che ha sempre grande fascinazione sull'Argentina. Altre notizie dall'estero, magari le ritroviamo guardando quello che porta in approfondimento anche La Stampa, quotidiano torinese, che ci ricorda, oltre alle argomentazioni che abbiamo già citato, riporta da Londra il ritorno della terza classe sui treni per Glasgow. Questo potrebbe essere una buona notizia anche per tutto ciò che è una visione futura vicino alla classe operaia di Corbyn e in eventualità di quello che saranno le elezioni a breve. Beh, per quanto riguarda il resto del mondo, l'India regolarizza gli immigrati ma non quelli musulmani. Oggi la Camera Alta deciderà se ratificare la legge proposta dal nazionalista di Modi. In molte città sono in corso le proteste e il provvedimento è considerato incostituzionale. Iran, le proteste in Iran nate dalla crisi economica. L'intervista all'attivista Azad Purzand. Il riformismo ha fallito, ad aver perso la pazienza sono stati, come al solito, i più giovani, più sensibili e più vittime di tutto ciò. Quindi, restando in zona, e chiudo con le guerre del Golfo, al Consiglio di cooperazione salta la pace tra due importanti realtà, cioè Riyadh e Doha. E non sempre i nostri giornali scelgono dei testimoni internazionali ad hoc. Per esempio hanno scelto Juan Guaidó, l'autoproclamato presidente del Venezuela, la sua banda, la sua cricca, sono rivelati narcotrafficanti, frequentatori di prostitute. L'altro, per cui non c'erano candele, spento il Colosseo, era la San Kuki, la donina, no, coraggiosa contro il regime dei militari in Birmania, che tutti ci ha commosso. Beh, oggi si commuove un po' meno. San Suu Kyi al premio Nobel per la pace, l'udienza dell'AIA per i crimini contro l'umanità. E cosa, questo è il giornale, cosa dice San Suu Kyi in questo, al tribunale dell'AIA? I Rohingya e lei di genocidio. Aung San Suu Kyi all'AIA, la Nobel per la pace, bolla come terrorista la minoranza musulmana in Birmania e difende le stragi dei militari. O se questi sono i premi Nobel per la pace, chissà quegli altri. Detto questo, ci sono testimoni e testimonial, evidentemente. Noi vi citavi appunto l'America Latina, facciamo un ponte tra il Cile e l'Italia, e lo facciamo un ponte al femminile. In questi giorni, infatti, in numerose città italiane il movimento femminista, non uno di meno, sta riproducendo il flash mob Un Violador en tu Camino, lanciato dal collettivo cileno La Stesis, che chiama raccolta tutte le donne e le dissidenti del mondo per riproporlo nelle proprie città, nella propria lingua, nella modalità che più preferiscono. È già lunga la lista di città dove la performance viene replicata: Modena, Genova, Roma, Napoli, Trieste, Milano, Firenze, Bologna, Padova, Reggio Emilia e Torino. Nei prossimi giorni se ne aggiungono tanti altri. Qui il calendario in aggiornamento dei prossimi eventi. Questo è il tema che arriva dal Radio Onda d'Urto, che ringraziamo per il servizio, e ci presenta appunto l'intervista a un esponente in un'ora di meno. Sentiamola le sue risposte. Prima di tutto le donne che erano effettivamente tante. E c'è stato il flash mob, è stato ripetuto insomma diverse volte. E diciamo che è sempre emozionante sia vederlo in video, ma soprattutto di persona, perché comunque è un grido di battaglia che ormai è diventato internazionale, quindi l'abbiamo visto partire dalle piazze appunto del Cile a Santiago e poi espandersi non solo in tutta l'America Latina, ma anche in tutta Europa, a Berlino, a Londra, a Parigi e adesso anche a Roma. Quindi diciamo l'emozione è molto forte, anche perché soprattutto il momento in cui si punta il dito e si dice lo stupratore sei tu, significa appunto non solo una presa di consapevolezza, ma anche un'accusa molto precisa, che non è solo allo stupratore singolo, ma appunto allo Stato, alla giustizia, che non protegge, non interviene nei confronti appunto delle donne. Che poi, se ci pensi, insomma, questo flash mob, il test, è stato creato da un collettivo cileno di Valparaíso, insomma un piccolo gruppo di donne che è diventato invece poi insomma virale. Loro non si aspettavano assolutamente questo risultato, però è importante perché ormai diciamo queste manifestazioni, il movimento delle donne internazionale, anche se soprattutto in Italia si tende insomma un po' a boicottarlo a livello mediatico, sta diventando sempre più forte, e quindi diciamo questa viralità ormai sui social costringe i media tradizionali a occuparsene. Infatti lì c'erano anche diverse telecamere, insomma. Certo, secondo te come mai ha avuto così successo questo flash mob? Perché viene riprodotto continuamente, giornalmente praticamente, in tutti i paesi del mondo, fino in Australia è arrivato? Sì, allora guarda, prima di tutto perché è un testo assolutamente riuscito, è un testo che è stato ripreso appunto da dei testi di un'antropologa brasiliana, e riadattato da Marcella Betancourt appunto in Cile, ma diciamo ha un senso molto preciso, che è quello di un'accusa diretta non solo rispetto appunto a offender, stupratori eccetera, ma appunto allo Stato, quindi al sistema. È un testo molto semplice però molto efficace, che va alla radice della questione, cioè che il problema fondamentale della violenza sulle donne, del femminicidio, è un problema che prima di tutto riguarda gli uomini, quindi il fatto di accusare direttamente, no? Il maschile, e l'altra cosa è che comunque anche lo Stato ne è coinvolto, la giustizia, i magistrati, la polizia. Poi ricordiamoci che in Cile in questo momento i manifestanti vengono aggrediti anche dalle forze dell'ordine, le donne nel momento in cui vengono arrestate vengono anche torturate e stuprate all'interno delle carceri, delle prigioni, quindi è ancora più forte, no, il messaggio. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. E veniamo al Dubbio, giornale online che apre: operai, segre, sardine, le piazze protagoniste. Sabato a Roma l'appuntamento antisovranista. Manifestazioni di sindacati e sindaci condizionano la politica. Questo è il quadro Le sardine, questo è il tema, le sardine, i provocatori di Casa Pound, no grazie, siamo antifascisti, la grave scivolata di Stefano Gongo, che aveva detto se uno, non se viene in Casa Pound, nessuno di Casardini viene, nessuno di Casa Pound viene in quelle sardine, con i nostri contenuti va bene, è una grave scivolata perché naturalmente è stata corretta subito dall'Organizzazione Generale delle Sardine, ma dà a Casa Pound la possibilità di fare una provocazione in piazza. E questo dà la possibilità ai giornali di parlare, come per esempio dice il giornale, l'invito a Casa Pound apre in due le sardine, no, apre ma se uno contro gli altri, ma ha detto questo, ma il movimento riempie il centro di Torino, ai ai ai, le sardine nonostante tutte le trappole che o le ingenuità in cui incorrono continuano a essere un'idea di democrazia che è davvero molto espansa, è un'idea di pericolo alla democrazia che è altrettanto espansa in questo momento. Il Corriere invita poi negato a Casa Pound, tra le sardine scoppia il caso, loro, Casa Pound ci saremo, lo stop, non siete benvenuti, e poi si canterà Bella Ciao in piazza e quelli di Casa Pound noi non la cantiamo perché appunto sono dei fascisti. Abbiamo allora i consigli di Malavoglia del Fatto Quotidiano, i consigli del io per il Fish Mob di sabato. Il primo consiglio: sono un giornalista molto presente nel talk, approfitto della pausa tra Agorà e Caffè Bread per suggerire al bravissimo Mattia Santori di non logorare l'immagine del movimento con troppe apparizioni sui teleschermi. Anche perché, finendo per dire sempre le stesse cose dappertutto, succede che poi il pubblico ci stufa. Scusate, ma devo correre all'area che tira a Tagadè. Questo è il primo. Sono un famoso scrittore, tendente al celebre, e impegnato come sono nella stesura del mio bestseller di primavera, ne pubblico una stagione. Ho saputo per puro caso di queste sardine che manifestavano sotto casa mia. Non ci crederete, ma hanno parlato di tutto il tempo di antifascismo, antirazzismo, disastri ambientali, mafia, 'ndrangheta e camorra, ispirandosi chiaramente ai miei libri. Ho deciso allora che dedicherò il prossimo libro con successo autunnale al titolo Io e le sardine. Scrivo di retroscena politici per un prestigioso quotidiano. Ero così impegnato a documentarmi sulle guerre in corso tra le 7 correnti di 5 Stelle, i 12 ministri del governo Conte e i 27 finanziatori della Fondazione Renzi, che non mi sono accorto delle 50.000 sardine in Piazza Maggiore. Niente paura, grazie ad una loro fonte, rigidamente anonima come sempre, ho appreso che stanno per scindersi. Tra poco annuncerò in esclusiva l'imminente nascita delle Acciughe, dei sgombri in tendenza a ringhe. Ancora, sono il direttore più amato degli odiatori di pura razza ariana e queste acciughe come cazzo si chiamano mi stanno solennemente sui coglioni. Una massa di gretini, ignoranti, mululafacenti, buonisti e comunisti che con la scusa del riscaldamento climatico e boiate simili, infatti imbecilli che non siete altro, qui piove e si gela, fanno sega a scuola. Anch'io da giovane avevo i miei ideali, non dico quali altrimenti mi arrestano, ma non rompevo gli zebedei al prossimo. Sono un ex sessantottino, noi sì che eravamo tosti, spranghe molto, altro che burro e alici. Sono un ex girotondino e senza di noi altro che sardine. Sto paese andrebbe ancora al potere quel fascista di Berlusconi delle tue TV. Del Debbio, Girolamo e Porro, chi? Sono un politico di destra, anche se mi è chiaro che questi ragazzotti sono tutti di sinistra, che marciano comunque contro Salvini, mi conviene farlo ignorare in previsione del voto in Emilia Romagna e Toscana. Dichiarerò quindi che è confortante vedere tanta freschezza nei giovani che scendono in piazza con dei valori da rispettare, purché si intende non si facciano strumentalizzare del governo di Bibiano e dei MES. Hai mai visto mai che nell'urna qualcuno ci ripensa? E quindi sono la bestia di Salvini, purtroppo sono sardine troppo pacifiche. Ma quando è che arrivano i centri sociali a fare un po' di casino? Abbiamo già l'hashtag azzurre fuori e rosse dentro. E poi sono Giorgia Meloni, sono una donna italiana, sono cristiana, sono sardina. Sono Nicola Zingaretti, quali sardine? Li abbiamo letti tutti, si può dire. Ma prendiamo anche il resto del Carlino, che anche lui ci mette la sua. Esordio in 20 per le anti-sardine. A Torino baciano il rosario e pregano per Salvini. La piazza invece è piena per il movimento. Lo dice con una sorta di amarezza. Le sardine fanno il pienone sotto il balcone dove Vittorio Emanuele il secondo voleva fare l'Italia. Non arrivano a 20 invece le prime anti-sardine d'Italia, che dà una proporzione abbastanza esplicativa, che davanti al Palazzo di Giustizia baciano il rosario e recitano i misteri dolorosi per Salvini, mica tanto dolorosi, atteso invano a rendere conto di vilipendio alla magistratura e tante altre cose aggiungo, ma d'altra parte si prega anche per i morti, dice lo stesso Carlino, manifestano contro e per la stessa persona che da buca a tutti. Siete sardine? Sì. Squali? No, ce n'era uno, non mi dicono che non essere venuto, urla dal palco Paolo Ranzani, capopopolo torinese. Le sardine poi sono al centro della polemica, no? Resto sul resto del Carlino, scusate la ripetizione, a pagina 8, a proposito di Casa Pound, le sardine, il primo scivolone su Casa Pound, sono benvenuti, gaffe in vista della manifestazione di Roma, poi marci indietro, siamo antifascisti senza se e senza ma, ovviamente si capisce, certamente invece vi è dai giornali un cavalcare di tutto e di più, come giustamente poi riprendeva anche Alfredo dai giornali da lui selezionati. Le piazze hanno avuto degli altri protagonisti, oltre che le sardine, ma la carica dei 600. Per trovare questo titolo non bisogna tanto sforzare la vista, perché lo troviamo sui giornaloni come Repubblica e La Stampa a titoli cubitali. La carica dei 600 Milano Italia, per la prima volta i sindaci di ogni partito in Piazza Duomo contro antisemitismo e razzismo. Il commento di Sebastiano Messina, la semplicità sotto una sola bandiera. L'abbraccio a Milano, la manifestazione dei sindaci per Liliana Segre, 89 anni, accanto a lei Giuseppe Sala. Prende posto anche nelle prime pagine della stessa Repubblica la marcia di Segre con i 600 sindaci, cancelliamo l'odio, il corteo nei luoghi della resistenza, dice, noi siamo la scorta, indietro non si torna. Io di centrodestra, parla Ilaria Caprioglio, non ne possiamo più di questo modo di dialogare, tutti coloro che alzano troppo il tono della voce sono responsabili. Io di centrodestra qui perché non c'è più rispetto. Ilaria Caprioglio è la sindaca di Savona. Nella scorta civile di politici non di sinistra dice siamo antifascisti e vorremmo riscoprire, per quanto riguarda le affermazioni di Ilaria, sindaca di Savona, vorremmo riscoprire il dialogo. Altre testimonianze, Edith Brooke, la memoria non muoia con noi superstiti. Quando non ci saranno più i testimoni, i negazionisti avranno strada libera. Primo Levi è morto con questa paura. Certamente è l'aria che tira, non è delle più rassicuranti. Le piazze dei valori sono a confronto sulla stampa. Anche quello delle sardine in piazza Castello a Torino, veramente gremito. E in fianco la senatrice a vita Liliana Segre che sfila Milano con 600 sindaci. L'editoriale di Francesco Bei, qualcosa è cambiato. Un paese che vuole ripartire. Sta accadendo qualcosa in questo paese, è bene dirlo subito. Fermiamoci in secondo nel nostro quotidiano Tran Tran per riconoscerlo come una cosa nuova e aggiunge anche preziosa. Il Manifesto ovviamente ne parla, da Torino che risponde all'appello, a Piazza Castello si riempie di sardine, e poi parla anche dell'appuntamento a Roma per il primo appuntamento nazionale. Mentre gli organizzatori ne ribadiscono la natura pacifica e soprattutto antifascista contro sciocchezze e provocazioni. Come giustamente dicevamo in precedenza, nonostante certo le ingenuità, la novità sardine e anche la furbizia e la velocità dei giornali. No Casa Pound in piazza San Giovanni, noi antifascisti, il resto è sciacallaggio. Ma alta velocità, come vi ho detto, per quanto riguarda un'altra piazza, quella dei sindaci, i sindaci con Liliana Segre che dichiara l'odio è dei vili da tastiera. Sì, il Corriere della Sera mette questa manifestazione nel corso di Milano. Senatrice Liliana Segre, ricordiamo, 89 anni, sopravvissuta ad Auschwitz al centro di Sinico di Milano, e 600 sindaci che gli hanno fatto da scorte, tutti con la fascia tricolore. Comunque la si pensa una risposta forte ai famosi hater, quelli che minacciano col manganello elettronico chiunque odori di democrazia o chiunque cerchi di opporci all'avanzata della destra fascista. L'abbraccio di sindaci Liliana Segre, noi insieme contro l'odio. In piazza Milano anche tanta gente comune, il sindaco Sala, se il clima non cambia torneremo qui. Primi cittadini di ogni schieramento davanti da tutta Italia, dietro lo stesso striscione. E naturalmente fa anche impressione la vivacità e lunga vita davvero Liliana Segre, che ha una vitalità incredibile, nonostante l'età avanzata. La senatrice tra i primi cittadini, corrono come bersaglieri, gli applausi e le strette di mano, sono contenta, siamo qui per parlare d'amore. Naturalmente il giornale dice c'erano anche quelli di Forza Italia e c'erano anche molti di quei consiglieri che non hanno voluto dare la cittadinanza onoraria alla Segre, perché chiaramente adesso ci sono le elezioni in Milano Romagnolo, bisogna essere fintamente progressisti. Ma detto questo, bene così, piuttosto che il contrario. Poi devo dire che in queste piazze democratiche di cui citava il Dubbio, quella naturalmente meno chiacchierata è quella operaia, perché sembra che le questioni operaie ai giornali, o molti giornali, gliene frega poco o forse ancora meno, anche se poi si scopre che magari i sovranisti trovano in Inghilterra come in Italia radici nelle fabbriche abbandonate a loro stesse. Allora la pagina, per esempio, del secolo XIX, siamo in Liguria, dai diritti all'Ilva e Piazza Italia. No alloggi, a Milano in migliaia in piazza con Segre, sindaci, a Roma l'uro dei lavoratori a rischio. A rischio, più che a rischio direi, che per alcuni di questi sembra essere già suonata la campana morto della disoccupazione. Speriamo proprio di no, di sbagliarci, ma tutto questo più sul giornale diventa un trafiletto. Manifestazione, CGIL, CISL, ora c'è risposta a 150 vertenze. Come se fosse acqua fresca, 150 vertenze, poi del calibro di Alitalia o dell'Ilva, sì, non che sarebbe già grave di piccole aziende artigianali. Mi sembra... o Whirlpool a Napoli, i guai di Palazzo Chigi, questo no, sono i guai dei lavoratori, la crisi dell'industria, il giudice spegne l'Ilva, no alla proroga per l'altro forno 2, i PM hanno detto sì al rinvio, il tribunale, sicurezza a rischio, evidentemente no, l'altro forno 2 è davvero una minaccia per la comunità, ora ricorso in extremis, praticamente impossibile recendere un impianto spento da 2 settimane, perché questo è il giornale che naturalmente si schiera con l'ArcelorMittal contro la burocrazia, la politica, i rossi eccetera eccetera eccetera, come se la vicenda Ilva fosse colpa dei rossi o degli ecologisti. Ex Ilva, salvataggio a rischio, alta la proroga per l'altro forno 2, dice appunto l'economia del Corriere, scade domani i termini per metterli in regola con le norme di sicurezza. E i dati Istat sulla produzione sono sconfortanti, l'industria riflessi negativi sul PIL del 2020. D'altra parte, avere privatizzato un settore industriale strategico come quello dell'acciaieria ora fa pagare il conto non solo gli operai dell'Ilva che di Puglia o della Liguria o della Toscana, ma tutta l'impresa italiana che non sa dove rifornirsi di acciaio ed è ricattata dai mercanti compratori esteri. Comunque Sky domani il termine per mettere in regola quest'altro forno con le norme di sicurezza, naturalmente verrà assolutamente disattivato, perché nessuno ci ha mai pensato in questi anni a mettere a norma quest'altro forno, ma la colpa dei giudici, questa è la cosa curiosa. Palombella della Wilm, con la chiusura si aprono scenari drammatici per Taranto. Il lavoro in crisi torna in piazza, zero esuberi, basta parole, ne parla il manifesto, manifestazione dei sindacati a piazza Santi Apostoli. Landini al governo dice con un incalzante: muovetevi di fare qualcosa. Oggi tocca ai pensionati, alla Camera presidio per cambiare la manovra, è una delle diverse motivazioni per quanto riguarda la manifestazione. Lavoro in piazza, oltre che la rabbia dell'Ilva, il giudice no a proroghe per l'altiforno 2, qui in fotografia un momento della manifestazione invece che si è tenuta a Roma dei lavoratori dell'Ilva. Basta parole, il momento di ricostruire il paese partendo dal lavoro. Sarebbe anche l'articolo 1 della Costituzione, mi pare. Non si vive di tweet e di sondaggi, vogliamo risposte o la lotta continuerà. 160 tavoli di crisi aperto al Ministero, sono coinvolte 300.000 persone. Beh, non dimentichiamo anche Alitalia, piano industriale senza perdite, il governo traccia la rotta di Alitalia, la stampa, vicino ovviamente ai poteri forti, in questo caso rassicura Mario Patuanelli, non è possibile né pensabile farla fallire, bloccato il travaso del decreto sulla compagnia nella legge di stabilità. Questo per il lavoro, ripreso dalla stampa, ripreso anche da Repubblica. Ritorniamo a vedere sul manifesto che ci riporta invece le singole situazioni non di certo meno importanti. Stazione di Piacenza, tragedia sfiorata alle porte della stazione di Piacenza verso le 16:20 ieri, un treno merci in uscita è deragliato per la rottura di un asse di un carrello. Come sapete, i controlli, la burocrazia, la sicurezza sul lavoro sono diventati intralci, no? Soprattutto, come diceva prima Alfredo, dalla Mittal, che ne è un esempio per quanto riguarda inquinamento ed esuberi. L'ultimo vagone del convoglio prima divento un portale elettrico, poi è finito su un treno di pendolari sul vicino ponte del Po, appoggiandosi adesso. Sono 4 i feriti lievi, meno male, ma purtroppo ci tocca di leggere altre notizie con delle cifre ben più inquietanti e sempre in aumento. Andiamo a nord, Belluno, sciopero contro la Banebau, circa 2.000 lavoratori hanno preso parte a Melbourne Valbelluna alla manifestazione contro la chiusura dello stabilimento, uno dei tanti ACC Banebau, in cui operano 290 addetti. Lo sciopero indetto da FIM, FIOM e WIM ha riguardato tutta la provincia di Belluno. Dunque piazza Operae, piazza Perliano Segre, piazza delle Sardine, così riassunta nel titolo dell'Avvenire: più lavoro e meno odio, e così riassunta da noi con questo canto che è un polino che unisce tutte queste piazze. sbagliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Marlene Kunz in questo brano con Skin, una riproposizione delle tante versioni di Bella Ciao, cantatela come volete, ma cantatela, questo è il ragionamento. Io stonerò un po'. Sì, ma c'è chi stona maggiormente pure se intonato cantando altre ben diverse canzoni. Detto questo, veniamo al governo che come sempre tiene il primo titolo ai giornali, perché il tempo sempre con lo stesso titolo identico, può cambiare: tensioni tra PD e Renzi, tensione, oggi sono tensioni nei 5 Stelle. Oggi voto sul fondo salva stati, ultimatum di Zingaretti agli alleati. In qualche modo sembra esserci una tregua, ma c'è un senatore che deve essere il paragone, insomma, del rato, ma forse no, che minaccia di uscire dai 5 Stelle su questo voto. Dubbi sul movimento nella risoluzione di maggioranza, ieri una riunione, l'ennesima riunione tra i 5 Stelle su questa cosa. E evasione fiscale, sequestri per 6 miliardi. Comunque questo il tema dei 5 Stelle è anche il tema del Messaggero, governo appeso ai dubbi 5 Stelle. O ancora del Mattino, il governo appeso ai liti tra i 5 Stelle. Ma comunque devo dire che essendo giornali fotocopie, tu quando hai letto il Mattino hai letto anche il Messaggero, viceversa, quindi non sono la cronaca locale tra Napoli e Roma. Continuiamo allora, andiamo ad altri spunti che sono legati a questo titolo, che troviamo poi nel Corriere della Sera all'interno. Di Maio prova a placare i malumori da un senatore pronto a uscire, il capo assicura non romperò con il governo, Grassi non era un paragone, Grassi verso la Lega. Si vede che nel frattempo aveva contrattato un posto per il suo futuro, perché è chiaro che il problema è: come faccio a proseguire la mia attività politica? Questo, vista la decrescita poco felice dei 5 Stelle. Stati anche con il volto sul salva stati, anche paragone, Lucidi e Lannutti. Questo. Ma clima turbolento tra i partiti, ora con meno polemiche si va verso un assestamento. Baretta, avanti col salva stati, non vedo punti critici. MES, la maggioranza dunque cerca l'unità su questo fondo salva stati. Salvini e Meloni, l'attacco a favore alla Germania. Naturalmente nessuno sa cosa sia il MES, come funziona, ma tanto è poco irrilevante. è poco rilevante perché tanto ci si schiera appunto con la curva sud o la curva nord, in questo caso la curva centro-sinistra, la curva centro-destra. Questo è quello che troviamo da Quelli della Sera. Il giornale invece è il caso tipico del Vangelo: non guardare la pagliuzza negli occhi d'altrui quando tu c'hai una trave, perché apre con una fattura in guaiaconte. Diceva di aver lavorato gratis col suo esaminatore, ma le viene lo sbugiardano. Però vediamo il Fatto Quotidiano, e qui c'è la trave. Lega, trovati i soldi riciclati fino al 2018, che non è solo una fattura o una consulenza. Finite finte spese elettorali passate per l'associazione Maroni nell'era Salvini, indagato l'assessore Galli. Quindi non è la vecchia Lega di Bossi, quella che ha patteggiato 49 milioni e 87 anni di ratei, ma è questo. Lega, operazioni sospette anche con Salvini in carica. Per i PM di Genova parte del denaro transitato e rientrato nelle casse per volantini mai stampati. Oltre alla truffa, ipotesi riciclaggio. Tra il 2013 e il 2018 indagato anche l'assessore regionale lombardo della cultura. Povera cultura, ma guarda te. Stefano Bruno Galli, questo. E allora c'è anche un presentatarmi per il vecchio leader Bozzi. Umberto B, parabola di un leader dimenticato. E anche graziato dal Quirinale. Sì, e continuo con l'argomento ai fondi alla Lega da pagina 10 della Stampa. Perquisizioni in Lombardia, indagato per riciclaggio l'assessore Galli, e poi tante altre cose. Si diceva delle anti-sardine che pregano per Salvini, ecco, ne hanno ben donde. L'accusa è relativa a movimenti di 450.000 euro collegati all'incarico di presidente della famosa associazione Maroni. Russia Italia, i legami dell'azienda dei Caparini con l'inchiesta dagli Stati Uniti sul gas. La società di famiglia promuoveva la GVA, ora al centro dell'indagine, il figlio di Bruno, assessore leghista in Lombardia e socio della Mesit, che era inquisita e che era a stretto contatto con tutto quello di cui vi abbiamo parlato o che troviamo sui quotidiani per Lega e Salvini, Lombardia, lavoro, industria, denaro, riciclaggio, tutto quello sottobanco e bla bla bla bla. Si continua a parlare di messa, pagina 11, si tratta nella notte al Senato, i ribelli 5 Stelle minacciano lo strappo. Oggi Conte in Parlamento sul fondo salva stati, ma i giallorossi cercano ancora l'intesa sulla risoluzione. Paragone, potrei presentare un mio testo. Giuseppe Conte qua ritratto in centro pagina, e ritroviamo anche questo come titolo principale, uno dei titoli principali per la politica interna, con lo strappo ricucito, no, dei 5 Stelle, con scusate, Di Maio che riceve gli applausi e che allontana la crisi. Riceve l'applauso a pagina 5 dal Manifesto, riunione con i senatori 5 Stelle dedicata alla risoluzione sul MES. Per il leader lo scoglio va superato, gli eletti tirano un sospiro di sollievo. Sul testo al voto oggi emerge qualche dissenso, mentre in Europa ora si guarda al GUE, che è il movimento di sinistra nel Parlamento europeo. Di Maio esce dalla riunione e incassa il risultato. Ho trovato i senatori molto compatti, stiamo lavorando al meglio e si va avanti così. Qualcuno si distingue, l'aveva fatto Gianluigi Paragone, abbiamo citato prima la sua affermazione, lo ritroviamo sul Manifesto annunciando il suo voto contrario alla risoluzione che verrà presentata oggi in occasione delle comunicazioni in aula da Giuseppe Conte sul prossimo Consiglio europeo. Da il Manifesto ritorno su Repubblica nella pagina di cronaca politica interna, perché ci parla, visto che completiamo l'arco per le notizie che arrivano dai quotidiani per la politica, a pagina 10 di Repubblica, basta con la sinistra al maschile, si parla di Partito Democratico. Nel PD le donne chiedono la svolta, dal segretario in giù tutti uomini, nel maggior partito della sinistra italiana la presenza femminile è oscurata, ma direi che anche negli altri, ma un primo segnale può arrivare dalla corsa alla presidenza in gara Tinagli, Pinotti e Quarta Pelle. L'approfondimento di Giovanna Vitale a pagina 10 su Repubblica, non serviva l'elezione di una socialdemocratica 34enne premier della Finlandia per provare la arretratezza della sinistra italiana rispetto a quella degli altri paesi europei, una cosa diffusa, e al Nazareno sono mesi che la questione femminile cova sotto la cenere, da quando Paola De Micheli ha annunciato le sue dimissioni da vice segretaria per fare il ministro dei trasporti. Il presidente Paolo Gentiloni è stato designato commissario, due posti al vertice del PD che Nicola Zingaretti Stati dovrebbe ora assegnare ad altrettante donne per tenere fede alla promessa parità di genere negli organismi dirigenti, inserita prima della sua mozione congressuale e poi anche nel nuovo statuto del PD, cambiato dopo 12 anni da su un input di Nicola, che ha pure reintrodotto la conferenza nazionale delle donne DEM, azzerata e sostituita da Renzi con la contestato, con il contestato Dipartimento della Famiglia. No, no, leggilo tutto, sicuramente ci sono anche i contenuti di questa cosa. Sì, no, perché pensavo che ci citava la Finlandia, ma proprio ieri leggevamo che la premier finlandese, 34 anni, eccetera, eccetera, figlia di una coppia omosessuale con un bimbo, una ragazza madre, però ha detto: non è questo il punto, è che io ho fatto una svolta di sinistra. Potrebbe sapere la Pinotti e quegli altri qual è la svolta di sinistra che invocano il Peter Zingaretti per avere uno spazio politico. Sarebbe interessante. Ma detto questo, si parlava della Lega. Turbina USA e russi, Caparini ineguagliato dall'agente coperto. L'FBI, la presunta vendita in violazione dell'embargo, nega tutto l'amico di Bossi con figlio nella giunta Fontana. Però non si capirebbe perché. Sì, un undercover agente, un agente di scopertura a metterne guai questo Gabriele Villone e Gruton Caparini, quale sarebbe l'interesse politico di questa agente? Però lui dice: no, non sono io. Vabbè, vedremo. Traffici con Mosca. Industriale Gabriele Villone sono sospettati di cospirazione, frode e riciclaggio. Questo è. Quindi grane che possono arrivare da oltreoceano. Dopodiché il giornale comincerà a dire che sono i magistrati americani che sono delle toghe rosse. Detto questo, oppure il nodo immigrazione così trattato dal giornale in chiave elezioni Milano-Romagnolo. Soccorso Rosso Bonaccini, 4 milioni le coppie sui migranti. Che pagare le coppie che lavorano sui migranti è un reato, secondo il giornale. Questo è un aiuto al governatore emiliano del DPD in campagna elettorale con i fondi statali destinati all'inclusione. Beh, le coppie non lavorano per l'inclusione. Questo è curioso. Comunque, complimenti ad Antonella Aldrighetti in questo nodo immigrazione del giornale. Però complimenti anche il PD per questa cosa. Giustizia, sapete che c'è a prendere la prescrizione, che i 5 Stelle la vogliono dopo il primo stato di giudizio, il PD non vuole, un partito che si giocherà a gennaio. Giustizia, le controproposte del PD per equilibrare, pagelle e PM sui processi persi. Quindi si va su un primo di produzione. E allora? Dunque, in sostanza, una pagella compilata tenendo conto dei processi vinti o persi dei PM che dovrebbero essere responsabilizzare maggiormente nelle loro decisioni. Vuol dire che un PM, dopodiché, non farà mai una causa contro un potente, perché è più facile vincere una causa contro uno Zingarello che contro un potente dell'IRI, che so. Allora, il Zingarello ti dà dei punti, quell'altro invece ti fa arretrare. Questa è la grande proposta del Partito Democratico sulla giustizia italiana. Complimenti anche a questo, ma giriamo pagina allora e andiamo al giornale, che ci dà una news, una pre-news su televisiva della RAI. Tra l'altro la RAI è anche oggetto, diciamo, del Sole 24 Ore, perché si parla di televisione, c'è un ritorno, gli italiani tornano alla TV, mediamente vedono ognuno di questi italiani 15 minuti in più al giorno a testa, no? Sempre la solita media, un pollo su ogni tavola, gli italiani tornano alla TV, ma la RAI perde ascolti. Evidentemente dipende ascolti anche sulle TV on demand, le piattaforme digitali e quant'altro. Ma la RAI prenderà una docufiction questa in occasione del 12 dicembre. Piazza Fontana vista attraverso il ricordo dei parenti delle vittime. In prima serata RAI Giovanna a mezzogiorno dà voce al dolore di chi non ha avuto giustizia. Al centro della trama la lotta per la verità di Francesca Dendena. La memoria e il lungo iter processuale è stata un'ulteriore ferita per il nostro paese. Questo è quanto. E anche Radio Città Fujica è impegnata in questo ricordo del cinquantenario dell'inizio della strategia di tensione del massacro di Milano, che in qualche modo fa un lungo ponte col massacro all'azione di Bologna. Quindi questo pomeriggio ancora alle 17 andrà in onda lo speciale radiofonico Te lo raccontiamo noi, l'autunno caldo. Nel racconto dei fatti di 50 anni fa c'è spazio anche per parlare della dissidenza all'interno della Chiesa Cattolica. Sul tema abbiamo interpellato Umberto, sentiamo le sue risposte. Degli anni 60, una stagione abbastanza ricca di discussioni e di movimenti. Forse il 68 per la Chiesa inizia qualche anno prima rispetto alla vita politica, è un movimento che coinvolge tutte le componenti della vita cattolica e che inizia a partire dalla fine del Concilio. Vaticano è sicuro. Però ecco, nel 68 a questa, diciamo, a questa tensione per l'applicazione del concilio si sovrappone anche una certa qual partecipazione di parte dei cristiani ai movimenti del 68 vissuti soprattutto in chiave anti-autoritaria. Cioè, i cristiani italiani vivono il 68 soprattutto come un movimento anti-autoritario, di cui poi approfondiscono le suggestioni egualitarie, pacifiste, magari anche pauperiste. Comunque non è certamente un caso che nel 68-69 quelli che erano i testi fondamentali, ecco, che tutti avevano in tasca o sul loro tavolo, erano appunto da un prima la lettera a una professoressa di Dominani, che è del 67, che è la prospettiva di una nuova pedagogia, l'uomo ha una dimensione di Marcuse, e poi dei testi legati a un marxismo non di stampo ortodosso o sovietico, ecco, come poteva essere Rosa Luxemburg oppure lo stesso libretto rosso di Mao. E invece per quanto riguarda la teologia della liberazione, quanto fu importante secondo lei? È stata importante soprattutto per approfondire, una volta che si è avviato, ecco, una riflessione sul concilio, i temi della pace e soprattutto i temi dell'uguaglianza, dello sfruttamento dei paesi anche dell'America Latina. Ecco, vorrei tornare un attimo all'Italia per ricordare quelli che sono forse i 4 o 5 momenti chiave di questo movimento, ecco, di mobilitazione. Il primo direi che è legato alla Università di Trento e alla esperienza trentina di sociologia, quindi quella grande novità che fu anche il sorgere di questa facoltà appunto a Trento, e nel marzo del 68 si ebbe uno degli avvenimenti più clamorosi, ovvero un contro quaresimale che portò a un intervento nel corso di una predica nel Duomo di Trento da parte di uno studente che era Paolo Sorbi, e che interruppe la predica di un frate che era chiamato a svolgere questi quaresimali. È un fatto che suscitò grandi clamori a Trento, tra l'altro ci fu anche una sorta di reazione trentina, cioè gli studenti vennero anche allontanati dai dintorni del Duomo, dovettero rifugiarsi in facoltà. Tra l'altro è anche interessante il percorso successivo, ecco, Trento è una grande esplosione. Tra questi Paolo Sorbi finirà diciamo nel Movimento per la Vita milanese, ecco, nelle forze più conservatrici del Movimento Cattolico. E poi un altro avvenimento importante è nel settembre del 68 l'occupazione della cattedrale di Parma per protesta, ecco, contro l'accettazione da parte della curia locale di una donazione di finanziamenti bancari. E poi non va dimenticato lo stesso Capanna, che Mario Capanna, che nasce dalla Università Cattolica e dalla quale viene espulso. Certo. Poi abbiamo Firenze, che ha la questione dell'isolotto con Don Matti, questa comunità di base che poi entra in contrasto forte con un arcivescovo molto conservatore come era Ermenegildo Lorit, e che a partire dal settembre del 68 si crea questa forte tensione che porterà poi alla rimozione di Don Matti in dicembre. Si crea tutto un insieme di realtà locali, pensiamo anche a cose molto più banali, ecco, o molto meno, apparentemente meno forti, come poteva essere a Venezia, viene fatto un presepio popolare alla Giudecca, sempre nel 68, a Padova ci sono dei moti o delle riunioni contro le comunioni di Stato, e poi c'è il tema della contraccezione, cioè il 68 è l'anno della Humanae Vitae di Paolo VI, e c'è una grande risposta, per così dire, di disaccordo che farà dire al Andreotti, in un suo solito ironico cinismo, che alla Gaudium et Spes, che è una costituzione discussione del Concilio Vaticano II, ecco, gli oppositori alla Umane Vitae, a questa enciclica sulla contraccezione di Paolo VI, volevano sostituire una nuova Costituzione che era la Gaudium et Gaudium, cioè la gioia e gioia, insomma. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. ...1969-2019... prima della cronaca locale vorrei ricordare anche un inserto di 4 pagine sul manifesto senza giustizia per la strage compiuta il 12 dicembre di 50 anni fa nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano. Non ci sono colpevoli, eppure l'intreccio di responsabilità tra neofascisti, apparati dello Stato, ambienti atlantici è ormai storia. E chiude così Luigi Pintor: è una verità tranquilla, ma è un fu di Stato, all'interno del manifesto quest'oggi. Come vi ho detto, cronaca locale, Bologna, titolo principale da Repubblica, al tram 509 milioni, la città riparte dalle grandi opere, da Roma via libera alla linea rossa, Merola dichiara una vittoria per Bologna, il rettore annuncia sbloccato il piano Nabile, cantieri per 375 milioni. Si prosegue con il caso di cronaca, coltellate fra ragazzini per una lite nata sul web, tutto questo succede alle scuole medie tra ragazzi di 12 anni. Il piano edilizio del rettore che sblocca il polo del Navile, qui fotografato a pagina 3 dall'altro, così metteremo un punto definitivo allo sviluppo dell'Ateneo per molto tempo. Ma la notizia che ritroviamo, oltre a quelle di cronaca, il Salvini, la strategia del Blitz per sfuggire alle sardine, il PD in regione, di molte cose che vi abbiamo già dato anche notizia all'interno della Nazionale, è a pagina 5. Natale in divisa per un canestro, agenti in rivolta contro il derby. Adesso io non seguo più, però leggo da Repubblica: i sindacati di polizia scrivono al questore chiedendo il rinvio di Virtus Fortitudo, ma Bernabei stronca la protesta, nessun motivo per non giocare il 25 dicembre. 4 associazioni unite nella richiesta di rinviare la stracittadina, costi esorbitanti e saremo anche in pochi. La festa triste delle famiglie spaccate in due, qui l'immagine del derby che appunto divide la città. L'idea infelice di giocare a Natale fa vedere subito le prime così problematiche, forse anche se giocava il 26 per esempio, per dirne una. Il derby di Natale va spostato, basket la richiesta dei poliziotti a questore e prefetto. È bello che questa volta ragionano i poliziotti. Virtus Fortitudo, la sera del 25 i poliziotti chiedono il rinvio, ma il questore Bernabei, si conferma anche dal Carlino che sto leggendo, la partita si giocherà, già fissato un incontro con le due tifoserie. Ci aspettiamo un tifo civile senza che qualcuno si lasci trascinare inutili discussioni in atti di violenza, che è una prospettiva sacrosanta, ma se è così si può anche sciogliere la polizia. Ma comunque, detto questo, c'è chi dice magari. Detto questo, diciamo che nel frattempo la Virtus gioca stasera con Patrasso, che è una parte importante per la corsa nella sua Lega Europea. Diciamo che sul derby forse l'unico odio che si accetta è quello dello sfottò, della presa in giro negli spogliatoi, delle palestre tra i tifosi amici dell'una dell'altra squadra, insomma quello che cantavano gli Schiantos. Che non cantavano gli Schiantos perché non cantano, era Odio il Brodo. Eccolo. Yeah. E allora facciamo come la 7, diamo i ragguagli prima di congedarci, ma non per lanciare degli altri spot pubblicitari con quel trucchetto che usano sul settimo canale, ma perché abbiamo da dire. Primo, dal Corriere di Bologna, ci sono i soldi, Bologna prende il tram. De Micheli stanzia 509 milioni con la linea 1, Mero la svolta per la città, la Lega attacca e si fa portavoce dei comitati anti-Trump. Questa è una. L'altra è quella che troviamo invece aggiornamenti dall'Internazionale. Ci citava dell'ennesima sparatoria nel Jersey, che prima leggeva Willy, in America dei piccoli omicidi o grandi stragi. Beh, diciamo che si colora di antisemitismo questa sparatoria a Jersey City. Il sindaco della cittadina ha affermato che gli uomini armati che hanno dato il via allo scambio di colpi con un bilancio di 6 morti, tra cui gli stessi aggressori, avevano preso di mira il negozio kosher ebraico, dove i due si erano asserragliati sparando l'impazzata dalle finestre. Le scuole della zona sono state messe in lockdown, ovvero con tutti gli accessi e le vie di uscita bloccate, e via che vendiamo le armi a tutti, compresi e ovviamente, anzi, in primis i fascisti. Andiamo a Kabul, la famosa guerra infinita. Bomba contro un ospedale, 50 feriti, poveracci, ma dai. Circa 50 feriti, per lo più civili, per l'attentato suicida di una struttura medica in costruzione vicino alla base aerea USA di Bagram, a nord di Kabul. Lo riferiscono le autorità. L'esercito americano non ha fornito dettagli sulle vittime, ma un funzionario locale del distretto ha confermato che oltre 50 persone sono rimaste ferite, e tra questi anche donne e bambini. L'attacco sarebbe avvenuto alle 5:55 ora locale, quando la maggior parte delle persone dormiva nelle proprie case. Nessuno ha ancora rivendicato questo attacco, ma è facile a chi assegnarlo. Con questo noi ci congediamo con i giornali, l'appuntamento domani con i giornali con Radio Zanardi, sempre a stessa ora, stessa frequenza. Ciao a tutti.